462. Pesce squadro in umido. Il pesce squadro, o pesce angelo, Rina squantina, è affine alle razze per avere il corpo depresso. La sua pelle, aspra e resistente, serve per pulimentare il legno e l'avorio e per foderare astucci, guaine di coltelli o di spade e cose simili. La sua carne è ordinaria, ma trattata nella seguente maniera. Riesce un piatto da famiglia non solo mangiabile, ma più che discretamente buono e di poca spesa, perché trovasi comune da noi. Componete un battuto tritato fine con un buon pizzico di prezzemolo, mezza carota, un pezzo di sedano, mezzo spicchio d'aglio, e se il pesce fosse grammi 600 circa, cipolla quanto una grossa noce. Ponete il battuto al fuoco con olio in proporzione e quando sarà arrosolato, fermatelo con sugo di pomodoro o conserva sciolta in un mezzo bicchiere d'acqua. Conditelo con sale e pepe e collocateci sopra il pezzo del pesce che preferibilmente deve essere dalla parte della coda, la quale è molto grossa. Cuocetelo adagio e quando sarà giunta a 2/3 di cottura aggiungete per legare la salsa e per dargli un gusto più delicato un pezzetto di burro bene impiastricciato di farina e finite di cuocerlo.